Ciao! Ciao a tutte e benvenute nello spazio d'oggestito del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa. Noi siamo sempre le pelose, Samantha e Federica. E questa, proprio questa, è quando eravamo pelose, ovvero stare di donne senza peli sulla lingua. Quando eravamo pelosi è un incontro di idee diverse e sentimenti comuni, di immagini e di colori, di suoni e di parole, o più semplicemente un insieme di storie di donne raccontate da altre donne. Le esperienze, la visione della vita, i desideri, i successi, le cadute, insomma, storie di donne che hanno saputo lasciare un segno indelebile nell'immaginario collettivo e che ancora oggi, oltre che nel passato, continuano ad influenzare intere generazioni di altre donne. Eh sì, e oggi abbiamo deciso di raccontarvi qualcosa di Tori Amos. Sento la mia voce con un eco terribile. Comunque, a prescindere da questo. Grazie, allora. Grazie Fonico, grazie. Ci sei, ti sei ritrovata? Sì, quasi quasi mi sono ritrovata. Hai ritrovato te stessa? Ce l'ho quasi fatta. Ok, allora, visto che Samantha si è ritrovata, vi possiamo cominciare a raccontare qualcosa dell'Amos. Allora, innanzitutto il vero nome non è Tori, ma dai. Strano. Eppure vi avrei detto un nome così comune. No, il suo vero nome è Mirelle Amos. E pare fosse figlia di un pastore metodista, una lieva prodigio. Il fonico dice senza pare, cioè proprio senza pare, cioè era proprio figlia di un pastore metodista. Tra l'altro già questo da piccolina... Questo dicono le leggende. Sì, le biografie, vedi, Samantha sono ignorante come sempre. E comunque... Penso che ignoro. Certo, il termine proprio, il significato letterario o letterale del termine. Fonico, ma lei non ha da fare questa sera? Comunque, oltre che ad essere figlia di un pastore metodista, era già da piccolissima una lieva prodigio di uno dei conservatori più prestigiosi degli Stati Uniti. Ma fortunatamente si è ribellata al suo destino di musicista classica. Ora, fortunatamente però non vorrei che la prendi con questa accezione negativa, La musica classica è bellissima, però sì, certo, sì, avremmo perso una grande cantante, una grande... Rockstar, esatto. La rossa. Oppure? La dea del fuoco. O ancora? Il fonico suggerisce la roscia. La roscia è un po' troppo romano, dai. La venusiana. O ancora la ragazza del coro, la pazza furiosa. La pazza furiosa. Io preferisco la viaggiatrice inquieta. Anche bambola americana che non condivido molto, un po' troppo bambola, la bambola americana. Guarda, ero quasi convinta che ti piacesse la picoltrice. La picoltrice, infatti, come hai notato, non l'avevo ancora detto perché lo volevo lasciare proprio alla fine, come quando ti lasci l'ultimo boccone, quello che ti piace più di tutti. Infatti, ecco, l'ho mangiato io. Esatto, vabbè, infatti è sempre così. E comunque sì, tanti nomi, tante maschere, tante traiettorie per un percorso che poi invece ha veramente firmato la buona musica al femminile. Sì, tra l'altro per almeno un decennio, se non qualcosina di più. Diciamo che caratteristiche della sua musica sono proprio una sorta di freschezza quasi impudente, una sorta di rapimento, no, in quello che canta, quando suona, anche soprattutto quando suona, insomma, uno spettacolo. Ma lei viene dal rapimento alla musica classica, no? Esatto. Quindi lascia questo senso. Sì, e soprattutto quello che è sempre, insomma, un po' in tutti ha lasciato stupefatti è la sua capacità di incantare con poco, cioè non ha bisogno di imbellettare o di inventarsi chissà cosa nelle sue canzoni. I suoi pezzi sono già forti così, hanno una grandissima forza emotiva, sono dirompenti, vi si legge tutta la sua personalità, tanto istintiva quanto complessa e contraddittoria. Thank you. Saturdays. Did I recall, by the way, he quella di Mirella Enamos è una storia di contrasti laceranti, una storia di una persona inquieta, sempre sospesa tra oppressione religiosa, sesso, morale, trasgressione, amori, rancori, studi classici e rock. Quindi, insomma, tante contraddizioni, tante verità e contrario della stessa verità nella sua vita. E certo che hanno fatto di lei poi l'artista. Scusatemi, stavo strozzando. Questa che è diventata. Ma già a 3 anni sa suonare il pianoforte e a 4 compone le prime musiche. Era una bambina freak con un buon senso del ritmo, ricorda lei. E a 5 anni diventa la più giovane allieva del prestigioso Peabody Conservatory di Baltimora, nel Maryland, dove si è trasferita con la famiglia. Eh sì, però alla fine al cuore non si comanda, abbandonerà abbastanza presto questo prestigioso conservatorio proprio per inseguire quelli che sono i suoi miti, dai Led Zeppelin a Jimi Hendrix ai Doors. Che forse non riusciva proprio a trovare nel conservatorio. No, infatti, secondo me no. Di lei il suo maestro di pianoforte diceva: eseguiva alla perfezione le sonate di Beethoven, ma poi si stancava e attaccava le sue canzoni rock, così chiamavo i miei figli ad ascoltarla. Rimanevamo tutti estasiati. Quindi veramente dentro di lei questa capacità di passare dalla classica al rock così, sì, al tempo di una nota. È una bambina promessa al rock proprio. Non si poteva fare altro. Sì, anche diciamo il nomignolo che poi diventerà il suo nome d'arte, Tori, è un po', ci racconta un po' quello che è questo personaggio, no? E Pori è un soprannome che viene dal giapponese Pollastrella e le verrà dato da un suo amico e poi rimarrà nel corso della sua carriera ad accompagnarla fino ad oggi, per sempre, insomma. E in famiglia... Sempre per le contraddizioni. Sì, non è che sono molto contenti. Siamo in una classica famiglia dove c'è un'area abbastanza opprimente dal punto di vista di bacchettonismo, di padre metodista ultraconservatore, nonna calvinista, veramente... Strenua predicatrice della verginità femminile, attenzione. Che non lo toglierei nella personalità. No, e infatti lei racconta in un suo brano: mi masturbavo nella mia stanza mentre mio padre teneva riunioni di preghiera al piano di sotto. Grandissima. He's in my pumpkin PJs. Lay your book. my chest. Feel the word, feel the word, feel the word, feel the word, feel the word. Su Radio Onda Rossa, nel martedì femminista e lesbico, siamo sempre Samantha e Federica. Wow. Samantha, wow, c'è ancora? Ricordata tutto. Ultimamente razionalizzo. E state ascoltando Quando eravamo pelose? Sì, e parlavamo di Tori Amos. Esatto, e dopo aver ascoltato questo bellissimo brano, continuiamo a raccontarvi qualcosa di lei. Parlavamo per l'appunto di questo suo conflitto interiore fra la libertà e l'oppressione che viveva nella famiglia, che quasi ossessivamente torna giustamente nei testi della cantautrice, che ci racconta un po' il suo modo di vedere la vita. Per esempio, in God il rapporto di Dio acquista una provocatoria dimensione fisica, e anche in Crucify, in cui il senso di costrizione dell'infanzia, perdonateci, c'è un fischio forse, non lo so. È tutta colpa di Samantha, sappiatelo. Anche il microfono addosso. Ma non fa niente. Sì, però nonostante tutto, nonostante quello che si possa pensare, lei non ha mai perso, lei Tori Amos, una sorta di fede in una religione più universale, no? Che vada oltre quelli che sono i pensieri. Ha scelto di credere in qualcosa di ancora più grande. Sì, dice infatti: credo in un grande spirito, in una divinità di cui Maometto, Buddha e il Dio cristiano siano parte. Una ricerca appunto che passa attraverso i miti dell'antichità, sia fra le sue letture preferite, tra le quali c'è la storia delle donne della mitologia classica, e addirittura dedica un album alla dea del fuoco hawaiana. Niente, io oggi posso anche andarmene. Sì, subito. Però no, ti farò compagnia fino alla fine, non ti preoccupare. Che bello. Ne sarai contenta. Allora, volendo fare un'analisi più spicciola, cioè proprio musicale, della opera di Tori Amos, sicuramente la sua musica nasce da un confronto che definirei febbrile, tra voce e piano, no? E sì, l'abbiamo anche sentito nel pezzo precedente. Sì, fatta anche di virtuosismi vocali, magari anche più su di quell'ottava che ti aspetti a volte, insomma. Sì, sì, riesce ad unire sussurri e grida, innovandoli in un registro quasi fanciullesco, che a volte richiama e riecheggia quello leggendario di Kate Bush precedente a lei. Fra l'altro, con il suo strumento preferito, appunto il pianoforte, ha un rapporto veramente intimo, quasi fisico. Ne parlavamo prima in regia, mentre c'era la canzone per voi, perdonateci, ma chiacchieravamo di questa cosa e dicevamo appunto che è proprio un prolungamento delle sue braccia, il pianoforte lo usa come se fosse una parte del suo corpo. Sì, infatti, dice infatti proprio Tori Amos: quando tocco i tasti del piano sento la stessa energia di quando sono innamorata, è qualcosa che mi viene dalle viscere, qualcosa più forte del sesso. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in their faces, then get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving another nail in. Just what God needs, one more victim. Why do we vero e proprio debutto avviene con Little Earthquakes del 1992. La musica cambia ed è subito una sorta di shock, perché nonostante la veste scarna e spartana dei suoni, i pezzi colpiscono dritto al cuore come una sorta di pugno. Sono delle ballate intime, dolenti, che scoperchiano veramente una serie di sentimenti, di passioni e di rancori che sembrano quasi ribollire tra di loro. E è stupefacente anche la compostezza con la quale la cantatrice allestisce le sue confessioni a cuore aperto, senza nessuna remora, insomma. riesce veramente a condensare in un sospiro, in una melodia, in una frase di piano ciò che altri non riuscirebbero ad esprimere con un'intera valigia di trucchi da palcoscenico. È un disco dove c'è la vera conferma di un vocalismo fantastico, che riesce a toccare delle punte altissime, riesce ad essere versatile ed ammantato da un velo di sensualità e di dolcezza che esprime ciò che ha veramente nel suo intimo. È innovativo, coraggioso, colmo di ambizione e di talento. E vende anche 1 milione di copie. Visto e considerato che aveva messo tutto il suo cuore. Sì, vende 1 milione di copie. Arriva al suo pubblico. Sì, e proietta la cantautrice proprio nell'Olimpo delle Songwriting in Rosa. E lei stessa ormai diventa consapevole di quello che è il suo DNA, cioè quello di una cantautrice forbita e matura e soprattutto molto molto seguita. E quando un presentatore TV infatti le chiede di definire con poche parole la sua musica, risponde quasi coniando una nuova definizione. È molto simile a un miscuglio di peperoncini bollenti e yogurt alla vaniglia. Wow! Abbiamo scelto di lasciarci un sottofondo musicale mentre vi ricordiamo che siamo Le Pelose e che vi stiamo parlando di Tori Amos qui dal martedì autogestito da femministe e lesbiche sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa sera non vi abbiamo mai dato i recapiti, ma la verità è che abbiamo un problema con il computer, quindi se voi ci scriveste noi non potremmo leggervi, però potete telefonarci noi e i nostri recapiti. E mentre ci ascoltiamo questa Silent All These Years, che è completamente acustica, wow, e continuiamo un po' a parlarvi di lei, magari. Eh sì, ce la teniamo in sottofondo. Sì, e nel 94 eravamo arrivati a peperoncini bollenti e yogurt alla vaniglia. Scusate, ma questa immagine mi resta veramente impressa. Da provare, Sì, soprattutto perché tu dici che il peperoncino è una rota. Mamma mia, guarda, non si dice, ma è come una droga. E sì, nel 94 esce un album che viene atteso molto dopo il successo di Little Earthquakes. Esce infatti Under the Pink, che sicuramente è il disco della sua definitiva consacrazione a livello mondiale. Invece il titolo nasce da una bella idea scherzosa: sotto i vestiti siamo tutti rosa. Beh, che non è male. C'è anche la rima. Sì, anche se i contenuti al solito sono tutt'altro che rosei e spensierati. Eh sì, sì, lei ormai è cantautrice e personaggio, ha proprio creato la sua versione di donna rock. Esatto. alla sfrontatezza sexy, all'immagine della ragazza fragile, l'immagine della ragazza passionale, tutto questo post-romantica. Tutto questo è confluito nella figura di eroina rock post-romantica, appunto, come tu l'hai ben definita, che non riesce a passare inosservata anche se lo volesse. E certo, visto che siamo sempre tutti a caccia di icone, anche lei prende il suo nome e il suo posto. Sì. Diventa così la leggendaria regina del rock. Sì, goddess of, rock. Una Guarda, divinità io solo a te volevo farlo leggere. La divinità dalla chioma fulva, avvinghiata quasi in maniera sensuale al suo pianoforte e anche pronta a soddisfare sempre con cose nuove e sorprendenti i suoi fan, sempre più numerosi anche questi. E certo, e proprio da lì prende il titolo il suo fortunato singolo e il suo nome, che naturalmente farò leggere a te, che questa sera sei così anglofona. Ma cosa? Conflict Girl. Parliamo di questo. Ebbene sì, questa fantastica ballata pop scandita da un piano che lei riesce veramente a far sovraeccitare e a farci sovraeccitare, irrefrenabile, con dei vocalizzi spaventosi, sì, che ci sorprendono ogni volta. Sì, e comunque l'album farà un exploit pazzesco, venderà più di 3 milioni di copie in tutto il mondo. I testi sono meravigliosi, oltre ad essere personali, sono diretti e vibranti, e veramente ci si legge dentro ancora una volta la sua storia. Sì, ma anche tutte le sfumature di quello che può essere un animo femminile, no? Esorcizzando ancora una volta i traumi del passato e i fantasmi di questa religiosità morbosa e soffocante che comunque tutto sommato non l'abbandona mai. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. With my hands I could be here. They must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Would just peel out the watchword. Nel 2001 Tori Amos torna con un nuovo album, Strange Little Girls, un album questa volta di cover in cui interpreta e reinterpreta grandissimi della musica rock, ad esempio brani di Tom Waits, dei Beatles, di Eminem. Anche io l'ho esaltato. Vero? La penso come te. E di Neil Young e di Lou Reed. E tanti altri. E tanti altri. In Florida, dichiara la cantautrice statunitense, stavo ascoltando un sacco di artisti maschi nelle cosiddette radio alternative e alcuni di loro cantavano di odiare veramente le donne. Eminem. Ho pensato a quello che gli uomini dicono delle donne e ho voluto costruire una specie di ponte tra questi due universi, pensando che fosse il solo modo per entrare nella testa di questi uomini. Nascono così 12 storie, veramente 12 storie al femminile, che Tori fa rivivere in chiave appassionata e sensuale. È fantastica questa. Sì, versione meravigliosa. Dal vivo. Sì, e con questi brani chiude una pagina cruciale della sua carriera la Amos e si rintana di nuovo in studio per incidere un nuovo album, Scarlet's Walk. Un album diverso, definito appunto un concept album. E, tra l'altro ideato mentre era incinta della figlia Natasha, subito dopo gli attentati terroristici in America dell'11 settembre. E pare che questo album fosse ispirato in parte ai racconti della madre sulla storia della sua famiglia Cherokee e in parte alla crisi d'identità dell'America di oggi, quindi queste due posizioni fra il passato e il presente. Ed è un vero romanzo in musica, un viaggio quasi epico e simbolico in cui proprio la protagonista, affrontando questo viaggio, percorre un mondo, delle storie, conosce quello che poi è oggi l'America. Sì, incontra sulla sua strada vari personaggi che interpretano l'America stessa e che mutano di tappa in tappa, come dice la stessa Amos, offrendo spunti di riflessione e di scoperta di se stessi in un mondo che ha perso il suo senso etico. Un po' come è costruita come l'antologia di Spoon River, insomma, no? Che incontra vari personaggi. Ci si muove e ci si conosce, esatto, se stessi. La storia di tante persone, e quindi un po' un microcosmo. E continua imperterrita in questi suoi viaggi che cominciano veramente a piacerle e comincia ad inventare sempre nuovi personaggi. E questa volta è un po' più grande il suo ambizioso concept album, American Doll Pose. Siamo nel 2007. E fra l'altro pare che lei si moltiplichi in 5 per riuscire a creare queste femminilità divine proprio. Sì, questi personaggi divinità: Isabel, Artemide, Clyde, Persefone, Pippa, Atena, Santa Afrodite e Tori, Demetra, che si contrappongono a quello che è l'universo maschilista un po' più bieco, diremmo, incarnato dall'America di George Bush e dei suoi ideali, e cui appunto viene rifilata proprio l'esplicita invettiva che apre il disco stesso. what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's so very, very Finalmente arriviamo nel 2011, quando esce Night of Hunters, abbandonata ogni tentazione pop da classifica, anche perché ormai le ha sbancate tutte. Sì, è scalato qualsiasi tipo di classifica. E poi secondo me un po' per tornare alle origini. Sì. Costruisce, esatto, in questo album tutti i brani su un'impalcatura molto classica, tutte variazioni di note, da arie classiche, da Schubert. E alla fine tutto torna alla musica classica, torna Schubert, Chopin, Satie, Debussy, insomma. Sì, quelli che lei studiava mentre pensava agli altri, alla fine tornano a far parte della sua musica. Sì, e infatti gli arrangiamenti risultano estremamente eleganti, perfettamente cesellati, sono quasi un continuum lungo tutto l'album, no? A volte sì, anche un po' narcotizzanti. Sì, pare proprio che ci sia questo senso per cui è onirico un po', siamo tutti in un flusso sonoro. Esatto. E più che bello, Night of Hunters è un disco importante, perché dietro c'è tanto mestiere. A questo, certo, punto giustamente lei si diverte, voglio dire, dopo tutti questi anni, dopo tutte queste esperienze, sperimenta, fa cose nuove, cerca di far rincontrare tutte le sue anime musicali, quelle che sono dentro di lei, insomma, no? Ancora una volta lo fa con passione. Esatto. Creando delle nuove melodie, dei nuovi suoni. Anche se non sono tutte canzoni memorabili che rimangono, però ci restituiscono un artista vista attraverso la lente quasi a ritroso nel tempo, insomma, ritorna tutto in questo album. Però noi non vi facciamo sentire questo album, ma abbiamo scelto di farvi sentire un'altra cover, una cover anche molto famosa. Words like violence, break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is you in my heart. All I ever wanted, all I ever needed is he in my heart. All I ever wanted, all I ever needed is he in my heart. Baldur's broken, to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so there's no pain. words all meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Words are very unnecessary. They can only do harm, can only do harm, can only do harm. E sulle note di Enjoy the Silence siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. E speriamo che vi sia piaciuta. Sì, speriamo che vi sia piaciuta, speriamo di avervi fatto compagnia, vi auguriamo buonanotte e il martedì autogestito da femministe e lesbiche torna martedì prossimo dalle 17 alle 23. Noi invece ci vediamo e ci sentiamo soprattutto tra due martedì, per quando eravamo pelose. E un bacio a tutte e buonanotte.